Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, a tutti buona giornata. Oggi proseguiamo il cammino che abbiamo iniziato ieri, anche se per la verità prendiamo una direzione diversa. Continuiamo a guardare lontano, teniamo gli orizzonti oltre confine, ma parliamo sempre dall'Italia, dagli investimenti. Partiamo sempre dall'Italia e dagli investimenti degli italiani che sempre più spesso si rivolgono verso l'estero, almeno per quanto riguarda l'ambito su cui ci concentriamo questa mattina, quello immobiliare, un settore di cui si è parlato molto nella giornata di ieri e che oggi occupa molte pagine dei giornali, perché c'è stata la pubblicazione degli ultimi dati Istat che confermano che in Italia si comprano sempre meno case. Nel primo trimestre di quest'anno le compravendite sono diminuite di quasi il 17% su base annua, i mutui si sono sostanzialmente dimezzati. I motivi li conosciamo: prezzi ancora abbastanza alti, venditori che non mettono in vendita perché vorrebbero chiaramente rifarci un po' il prezzo che hanno fatto quando hanno acquistato, le banche che non concedono mutui naturalmente a chi non ha tutte le risorse finanziarie per poter avventurarsi nell'investimento immobiliare e tante altre difficoltà. Se in alcuni casi non si può che smettere di pensare al mattone, pensiamo a chi non può permettersi neanche la prima casa e continua a vivere in affitto, in altri casi invece l'investimento potrebbe spostarsi verso un altro mattone. Questo lo abbiamo testimoniato proprio anche con la puntata di ieri, un mattone straniero. Per chi ha un gruzzolo da parte e vuole comprare una casa, può essere conveniente cercarla, non lo so, in un'altra capitale europea, in America, in quali altre frontiere? Quanto è disposto a spendere? Che tipo di immobile cerca e cosa ne fa? E soprattutto a cosa deve fare attenzione perché il suo investimento sia serio, prudente e conveniente? Sono tutte domande a cui cercheremo di rispondere questa mattina con l'aiuto dei nostri ospiti. Io come sempre vorrei anche le vostre domande, le vostre osservazioni all'800240024, al numero per i vostri sms 349-238-6666. Potete anche commentare il tema di oggi sul nostro indirizzo di posta elettronica salvadanaio@radio24.it o sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24. Con noi questa mattina Fulvia Arienti, esperta del mercato immobiliare americano, autrice del libro Real Estate, guida pratica agli investimenti immobiliari in America, non perché li abbia studiati da qua, ma perché li sta facendo direttamente. Fulvia, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti. Naturalmente non ci può mancare anche il supporto fiscale per queste operazioni. Gabriele Labombarda, direttore, dottore, commercialista e partner dello studio Bernoni Professionisti Associati di Milano. Buongiorno e bentornato. Grazie, buongiorno a tutti. E per uno sguardo a 360 gradi sulle opportunità immobiliari internazionali, naturalmente cercheremo di concentrare l'attenzione su quelle che sono alla nostra portata economica. Stamattina ci faremo dare qualche suggerimento da Federico Maria Ionta, amministratore delegato di First The Real Estate. Dottor Ionta, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, io vi ho dato tutte le indicazioni per intervenire in diretta, mi aspetto delle riflessioni interessanti, non solo le folcloristiche che fate sempre quando parliamo di questi argomenti. Investire all'estero non significa sborsare chissà che mole di denaro, vi posso assicurare che ci sono delle opportunità sul mercato immobiliare sia in Europa, adesso basti guardare quello che sta accadendo in Spagna e in Grecia, sia anche oltreoceano, che sono davvero interessanti e che potrebbero rappresentare davvero un'opportunità interessante, perché magari non si fida più della borsa, dei titoli di Stato, quindi del mercato obbligazionario. E quindi guardiamoci intorno, perché magari anche queste possono essere delle avventure interessanti, non solo delle avventure, delle opportunità interessanti. La borsa ve la racconto molto rapidamente, perché oggi è talmente una brutta giornata che vorremmo concentrarci il meno possibile sull'andamento dei mercati finanziari europei. Milano anche oggi mette a segno un meno 2,51%, meno 2 Parigi, meno 1,52% Francoforte, Londra perde oltre un punto, la Spagna perde più di 2,5 punti, e sono proprio le preoccupazioni per la Spagna, dove tornano le manifestazioni di piazza, e la Grecia, dove torna lo sciopero generale, a concentrare le attenzioni degli investitori. Lo spread fra BTP e Bund torna a salire ed è di nuovo intorno ai 370 punti base, anche se stamattina poi il Tesoro italiano ha concluso con successo un'asta di titoli di Stato a 6 mesi. I bot hanno spuntato dal mercato un rendimento in calo all'1,50% dall'1,58% del mese scorso, e però in ogni caso questo non è bastato a rassicurare completamente i mercati internazionali, appunto. Tra l'altro oggi il BTP Italia, il primo BTP Italia, quello che era stato collocato il 19 marzo, stacca la sua prima cedola semestrale, molti investitori se ne saranno accorti sul proprio dossier titoli. Noi tra l'altro di questo argomento torneremo a parlare nella puntata di venerdì a Salva Danaio. Io la borsa la lascio qua e andrei subito al tema di questa mattina. Parliamo dell'investimento immobiliare su paesi diversi dal nostro. Aveva una casetta piccolina in Canada, con vasche, pesciolini e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là dicevano: che bella la casetta in Canada. Per la verità, qualche giorno fa il Sole 24 Ore pubblicava un articolo dove verso questo paese veniva suggerita una certa attenzione, soprattutto per chi volesse andare a lavorare all'estero, non tanto per opportunità nel settore immobiliare. Però Fulvia, a Rienti in Canada ce ne sono anche di buone opportunità per quello che riguarda le abitazioni, il settore residenziale? In Canada non lo so, però in Florida sì. In Florida sì, perché lei c'è andata qualche anno fa e non è andata esattamente a Miami, ad Ocean Drive, quindi in queste località che veramente sono nell'immaginario di tutte, come quelle non dei surfisti, perché quelli sono in California, però forse anche lì fanno qualcosa, ma è andata nell'altra sponda della Florida e ha acquistato delle abitazioni per sé a poco più di $10,000. Dai $10,000 ovviamente da ristrutturare, ma si può arrivare anche fino a $30,000-$40,000 per case da tre camere e due bagni, mm-hmm. quindi ovviamente con giardini magari da 9.000 metri quadri, quindi diciamo cose molto interessanti. Certo, proprio quelle villette che vediamo nei film. Esattamente. Quando ho rivisto quelle tipiche della famiglia americana. Sì, quando ho visto i telefilm dopo ho detto: cavoli, ma sono proprio così. Certo, raccontiamo un attimo la sua esperienza, perché lei chiaramente non è un'improvvisata del settore immobiliare. No. Già faceva questo lavoro anche nel nostro paese, perché ad un certo punto ha cominciato a guardare anche oltreoceano, complice ovviamente il tracollo del mercato immobiliare degli ultimi anni a seguito della crisi dei mutui subprime, però tra il dire e il fare ce n'è un po' di percorso da seguire. Cosa è successo? Quasi tre anni fa, mi sono resa conto che il mercato in Italia non era già più lo stesso. Quello che io facevo, intervenivo prima che l'immobile arrivasse all'asta, quindi stralciando il debito, e quello che mi succedeva è che più continuavo ad andare avanti e più il debito era sempre più alto rispetto al valore di mercato dell'immobile stesso. Quindi ho incominciato a sentire alcuni amici che parlavano della parola foreclosure, e solo che non sapendo una parola di inglese, ovviamente io ho sempre cercato di nascondere. Ho incominciato a girare un po' l'America e finché ero al nord non ci ho pensato. Quando ho incominciato ad andare verso sud e sentire il caldo, che è una cosa che importante per me, perché mi piaceva l'idea di poter vivere al caldo, ho detto vabbè, adesso vado su questo sito che è www.foreclosure.com, e ho incominciato a vedere case che, appunto, che andavano dai 10.000 ai 15.000 ai 30.000, e io ho detto: vabbè, ma che cosa ci compro in Italia con questa cifra? Niente. Ma sarà vero? Allora io ci ho malapena ristrutturato due stanze, non ne dico altro, guardi. Già questo che mi sta raccontando mi sta frustrando parecchio stamattina. E quindi quello che ho fatto, ho deciso di andare, e sono capitata in una cittadina di 250.000 abitanti che è San Petersburg, che si trova nel Golfo del Messico, quindi in una cittadina dove nel nostro immaginario si parla due lingue, in Florida invece no, lì no, tutti parlano inglese, quindi la difficoltà nei primi momenti è stata difficile, ma poi dopo ovviamente quando vedi che c'è un business potrai imparare a parlare adesso qualsiasi lingua. Certo, la contea è quella di Pinellas. Ma anche questo è interessante, perché ci piace anche questa idea che ci immergiamo completamente in questo clima. Adesso io non vorrei neanche dipingere dipingere questa sua intraprendenza come dire un sogno che tutti quanti possono raggiungere, sicuramente possono farlo. Quali sono state le difficoltà che ha riscontrato? Ho letto anche nella velocità con cui comunque il mercato immobiliare, i valori degli immobili cambiano lì negli Stati Uniti, quindi non è detto che se lei oggi si collega al sito di Foreclosures e trova magari una buona occasione nel giro di una settimana, ammettendo che voglia raggiungere questa località, questa unità immobiliare sia ancora disponibile. Quindi la velocità intanto. La velocità sì, è chiaro che bisogna essere sul posto. Io sconsiglio vivamente a tutti quelli che magari vedono, vogliono comprare direttamente da internet, di non farlo, perché molte cose non sono visibili e quindi è meglio andare sul posto, vedere, e comunque bisogna essere molto informati prima di fare qualsiasi acquisto a livello fiscale e poi appunto e poi bisogna anche sapere e vedere le condizioni reali, perché delle fotografie non sono la realtà di quello, certo, che si può trovare, anche se poi anche lì il costo della ristrutturazione non è sicuramente quello italiano, però in ogni caso potrebbe far variare di molto anche l'investimento. Allora, Gabriele La Bombarda, le è venuta voglia di comprarsi, visto che lei comunque dal punto di vista fiscale sa già tutto quello che deve fare, magari così se le venisse in mente di farsi un acquistino in Florida o in Louisiana, non so dove. Sapere tutto è difficile, soprattutto perché ci si scontra con le legislazioni domestiche dei paesi laddove l'immobile è sito. Quello che è importante è avere le idee chiare sul perché si effettua questo investimento. Come per tutti, naturalmente, quindi esatto. Non perché va di moda, non perché Manhattan è al centro dei nostri sogni da anni, poi magari Manhattan è un altro mercato. Adesso concentriamo la nostra attenzione su investimenti di piccolo taglio. Che cosa c'è da sapere prima di partire per gli Stati Uniti? Adesso abbiamo cominciato da lì, ma poi magari affronteremo anche le altre aree che ci interessano. Una prima cosa da sapere con riferimento agli Stati Uniti, quindi al caso specifico, è che da loro si ha un minimo investimento iniziale per acquistare l'immobile, perché tipicamente le fee d'agenzia, le agenzie immobiliari, sono pagate interamente dal venditore, cosa diversa rispetto a quello che avviene in Italia. Ad esempio, altro tema rilevante è che negli Stati Uniti non esiste una imposta analoga all'IVA italiana, quindi laddove ci fosse applicazione dell'IVA ci sarebbe già una variazione di tanti punti percentuali che renderebbe l'investimento americano a parità di valore con l'investimento italiano più semplice e più economico da effettuare. Poi il consiglio è sempre: abbiamo le idee chiare sul perché investiamo, perché la strutturazione dell'investimento diventa rilevante per tutta la vita fiscale dell'investimento stesso. Un conto è investire direttamente nel mattone comprando come persona fisica, ci saranno delle determinate conseguenze. Un altro conto è strutturare l'acquisizione per via di un veicolo, e c'è quindi costituzione di una società americana e acquisizione dell'immobile attraverso detta società. Poi, tra l'altro, da quello che ho capito, anche in questo senso l'esperienza americana è molto più semplice rispetto all'Italia. Poi Fulvia Rienti ce lo racconterà. Lei ha costituito delle società per fare queste acquisizioni? Certamente, e costituire una società è una cosa che ci vuole pochissimo tempo ed è molto facile, snello e molto economico. C'è la vera impresa in un giorno lì. Esattamente, sì. Partita IVA e società si fa tutto in una mattinata, volendo. La Bombarda, poi quali altri suggerimenti dal punto di vista pratico ci dà? Ecco, da un punto di vista pratico, farsi assistere da persone che sono competenti nel mercato locale, perché le conseguenze dell'investimento vanno dettate dal primo minuto, quindi nel momento in cui si è strutturata al meglio l'acquisizione secondo quello che io devo fare. Ad esempio, se io la voglio affittare quella casa, posso avere convenienza a seguire un regime piuttosto che un altro. Se io la voglio utilizzare per periodi di ferie, non è detto. Abbiamo una cedolare secca anche negli Stati Uniti? No, però la cosa buona è che le imposte negli Stati Uniti in realtà non sono così elevate come lo sono da noi per redditi per chi mette di questo reddito. Taglio. Stiamo parlando intorno al 13-14% a seconda del, con questo è l'ordine di grandezza. Se pensiamo che da noi l'aliquota minima è del 23%, che è più o meno simile alla cedolare secca, stiamo parlando di 10 punti percentuali di differenza, certo. Ecco, l'ulteriore consiglio che mi sento di dare è: facciamo anche riferimento alle convenzioni bilaterali. Convenzioni bilaterali sono norme di rango elevato che il residente fiscale italiano, quindi l'italiano che investe negli Stati Uniti, deve conoscere, perché la convenzione bilaterale va a chiarire qual è il paese che ha la potestà impositiva su quel reddito. Quindi se io loco l'immobile avrò un reddito da locazione, la convenzione bilaterale specifica mi può dire che quel reddito di locazione è tassabile solo nel paese dove è l'immobile, oppure, come avviene nella maggior parte delle convenzioni, potrebbe dire che c'è una potestà impositiva concorrente, il che vuol dire che il reddito va sì tassato negli Stati Uniti nel caso di specie, ma poi va dichiarato anche in Italia, e l'Italia nel famigerato quadro RVW, no, quello del monitoraggio fiscale, no? No, quello va in un altro quadro, non RVW, che poi comunque rimane deve compilare, certo. È importante ricordarsi questo, perché l'Italia, è vero che scomputerà dall'imposta pagabile in Italia anche le imposte già pagate negli Stati Uniti, ma se io mi dimentico di dichiarare quel reddito in Italia, le sanzioni per la dimenticanza sono tra le più alte del sistema, si arriva fino al 480%. Diciamo che non ci dobbiamo dimenticare un buon fiscalista per farla l'operazione, per dirci poi, anche se tutto sembra molto semplice all'inizio, in realtà poi ci sono regimi fiscali per ogni paese differenti che vanno conosciuti in maniera approfondita. Voglio andare a casa. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace, io voglio andare a casa. La casa di Fulvia Arienti a San Petersburg, se non mi ricordo male, esatto. Nella contea di Pinellas, in Florida, sul Golfo del Messico. E molti ascoltatori, Fulvia, sono preoccupati perché dicono: ma insomma, quella è la zona di coccodrilli, e poi è in piena zona uragani. E ancora Paolo si chiede: ma insomma, si fida a vivere in queste case che hanno sempre come struttura principale il legno? Anzi, si fa la domanda e chiede se hanno sempre questa caratteristica, queste abitazioni. Okay, coccodrilli alla sua porta tutte le mattine? Tutte le mattine ho un coccodrillo che mi viene a salutare in piscina. No, in realtà ci sono anche i coccodrilli, anzi in un lago proprio vicino a casa mia ci sono coccodrilli, ma rimangono nel lago e non vanno in giro. Leggende metropolitane dicono che quando piove tanto escono, ma non si è mai verificato. Insomma. Ho visto però una tartaruga gigante, quello sì. Vabbè, però insomma andava piano e quindi non è stata la sua casa occupata senza diritto. La Lombarda abita invece regolarmente a Milano, noi non abbiamo coccodrilli alla porta. Federico Maria Ionta, lei che si occupa di intermediazione immobiliare appunto in questi mercati internazionali, ha un'abitazione anche all'estero? Glielo posso chiedere? Ma io trascorro la maggior parte del mio tempo negli Stati Uniti, per cui 5 mesi l'anno più o meno li passo a Miami, che è la città. Lo so, sono delle sofferenze, sono dei duri lavori che qualcuno qualche volta deve pur fare. Sì. Visti da fuori, è vero, visti ha ragione. Da fuori sono così. La Florida è sicuramente un posto straordinario dove vivere, dove passare del tempo, soprattutto nel periodo invernale, ma io sono anche un amante dell'Europa, per cui il resto dell'anno lo trascorro. Ottimo. Allora le faccio ascoltare subito la domanda, la richiesta di consulenza da parte nostra, da parte di Fabiana da Napoli, così affrontiamo anche il mercato immobiliare europeo, le sue opportunità e anche le sue difficoltà, perché poi non è detto che in Spagna, per esempio, dove il mercato immobiliare, e questo è stato il motivo della crisi, è letteralmente tracollato, perché non saprei utilizzare un altro termine, se effettivamente poi vale la pena anche investire in abitazioni che sono state al centro di una queste coste appunto della Spagna hanno visto una proliferazione appunto di immobili che a volte, anche qualitativamente parlando, non è che siano poi così belli, quindi magari i prezzi sono anche convenienti, ma ci piace vivere là, non lo so, ce lo chiederemo dopo. Fabiana, buongiorno, lei vuole andare a Berlino. Buongiorno, sì, Berlino, perché avendo dei risparmi mi sono resa conto che con quello che avevo risparmiato in una città come Napoli, ma credo poi in generale in Italia, potevo comprare sì e no in un garage in una zona scadente. Allora mi sono chiesta, io avrei avuto invece piacere di avere una cosa bella in un posto bello, magari in un bellissimo quartiere, e Berlino, che sta avendo questa esplosione architettonica, urbanistica, sembrava la cosa più interessante. Sono andata su internet e ho trovato questa società di immobiliare di Berlino che offriva, con la quale sono entrata in contatto, e alla fine ho potuto scegliere quantomeno sulla carta una cosa che mi piaceva. A questo punto però loro hanno tutto un regolamento diverso dal nostro, quindi si deve proprio uscire dalla mentalità immobiliare di acquisti immobiliari in Italia, perché si fanno delle prenotazioni, queste prenotazioni hanno un costo che poi, senza nessuna difficoltà, nel momento in cui la casa non dovesse piacere o dovesse intervenire in qualsiasi disagio, vengono immediatamente ribonificati sul proprio conto, quindi non è una cosa pericolosa, sebbene chi mi è intorno era sempre abbastanza allarmato per tutta questa mia iniziativa estera. Dopodiché questa cosa ha dei costi, diciamo, il mercato immobiliare è, diciamo, tutt'altro che il nostro. Ho scelto uno dei quartieri più raffinati e chic di Berlino, tanto che mi prendono in giro, dicono che mi incontrerò con Angelina Jolie. Sì, perché pare che pure lei abbia comprato. Ma io mi auguro che incontri Brad Pitt più che Angelina, cioè più che altro, no Fabiana? Meglio incontrare Brad Pitt che Angelina, cioè se proprio dobbiamo farci questo augurio, facciamocelo al meglio. Senta, Fabiana, adesso a parte tutto, io posso dire quanto ha investito lei per questa operazione? No, io veramente lo può dire, tanto non ho ancora investito. Il costo della casa, le faccio presente, è 66.700 euro. Ora, a questi bisogna aggiungere le spese notarili, che sono il 3% da loro, 5% di imposta fondiaria, 2% di spese legali, quindi loro hanno questi studi di avvocati, non si può capire rispetto a noi, guardate, com'è semplice. Hanno questi studi legali con personale che parla in italiano, simpatico, carino, precisissimo, cioè nel giro di minuti ti manda notizie, cose, documentazioni, leggi, sono stata bombardata di tutte le notizie che volevo. E infatti anche un loro commercialista che ho consigliato da questa agenzia mi ha praticamente illustrato tutto quello che era possibile, tutte le spese che avrei dovuto sostenere in Germania. Che cosa la trattiene ancora dal concludere, dal perfezionare questa operazione? Perché non si capisce in Italia che devo fare. Ah, ecco. Perché cioè, è l'Italia che mi dà un problema, in quanto sebbene io abbia capito tutto quello che mi costerà, diciamo, questa impresa in Germania, ho capito quanto pagherò ogni anno, c'è anche una società che gestisce, quindi tu non devi, se si allaga la casa non sarò mai io a dover volare a Berlino di notte ad asciugare l'acqua, voglio dire. E queste cose qua, però quando arrivi in Italia e dici scusate, vorrei sapere in Italia la mia dichiarazione dei redditi, ovviamente con l'IMU che abbiamo ci sarà un corrispondente per immobili all'estero e dice a quanto ammonta, come si fa? Cioè l'IVIE che è lo 0,76%, questo lo abbiamo appreso nella puntata di ieri, me lo ricordo persino io, poi dopo c'è la dichiarazione appunto che deve fare eventualmente l'anno prossimo se perfeziona l'acquisto quest'anno, ma adesso tutto questo ce lo racconta la bombarda, quindi lei vuole sapere in Italia come può essere, dal punto di vista fiscale immacolata con il fisco. La bombarda vuole intervenire immediatamente. Sì, volevo fare una domanda alla signora per poi poter fornire una risposta più circostanziata. L'immobile lo prende per tenerlo a disposizione sua e andarci oppure per locarlo? Per affittarlo. No, già affittato. Benissimo. Allora, abbiamo concluso così, Fabiana, così faccio subito rispondere agli ospiti. Posso chiedere solo l'altra domanda? Era al rientro, dovendo vendere questo immobile tra un certo numero di anni, i soldi che rientrano, quanto vengono tassati in Italia? Perché in Germania lo so, me l'hanno scritto. Ha ragione Fabiana, avendo la certezza della legge potremmo anche risponderle qua, come lei sa, tra mini patrimoniali che sono arrivate tra il decreto Salva Italia eccetera eccetera, chissà fra qualche anno le faremo una considerazione a bocce ferme. Però prima volevo sentire Ionta per un commento su Berlino, dove leggo da un altro rapporto, quello di Scenari Immobiliari diffuso qualche giorno fa, che i prezzi sono ancora di gran lunga inferiori rispetto alla media europea. Qua non c'è stata nessuna bolla immobiliare come in Spagna, quindi da questo punto di vista la Germania è più interessante. Ma è una questione di punti di vista. In realtà i dati sull'accessibilità dei prezzi di Berlino sono reali, perché gli immobili a Berlino hanno ancora dei prezzi molto bassi rispetto alle altre città europee. C'è da verificare che però c'è stata una crescita importante negli ultimi anni. Oggi in prime location si compra a Berlino con prezzi compresi tra i 1.700 e i 2.200 euro al metro, però fino al 2007 c'erano opportunità ancora molto vicine ai 1.000 euro al metro quadro. Dal mio punto di vista, ed è quello che consiglio sempre agli investitori ormai da parecchi anni, e come ho fatto negli Stati Uniti nel 2005 e 2006, la nostra strategia non è quella di dirigerci verso paesi che ancora non hanno conosciuto una bolla, ma proprio in paesi che sono in crisi profonda, perché è la migliore opportunità da ovviamente questo. Quindi io considero oggi, lo dico per la telespettatrice, e sono contento di questo approccio così entusiasta da parte sua. Beh, lo ha fatto anche in maniera molto attenta comunque, no? Questa scelta. Assolutamente, perché dalle risposte che ha dato si è documentata in maniera molto più sana rispetto a tanti altri investitori che probabilmente non riescono nemmeno a capire con chiarezza l'investimento che stanno facendo. Berlino è sicuramente un investimento conservativo, ovvero una location che non credo che possa perdere di valore, parlandosi di valori ancora molto bassi, ma se si vuole vedere accrescere il valore del proprio immobile, se si vuole rimanere in Europa, probabilmente si deve andare verso la Spagna da qui a breve, l'anno prossimo in Grecia. L'anno prossimo, quindi non è neanche il momento neanche di andare lì? No, per la Grecia non è ancora il momento e per la Spagna sarà il momento a breve. La Grecia non è ancora il momento perché i valori sono ancora, i valori e la situazione di crisi è ancora da dare, ancora è previsto un calo. Per quanto riguarda la Spagna, in determinate destinazioni il momento è quasi maturo. Premetto che concordo con quello che ha detto lei, cioè in Spagna non bisogna comprare ovunque, ma bisogna comprare in prime location. Comprare in paesini sperduti, immobili di scarsa qualità, solo perché hanno un basso prezzo al metro quadro, è una scelta assolutamente insensata, perché i parametri che vanno presi in considerazione sono altri. Posso dare, se mi permette, certo, un suggerimento su quelle che sono le cinque regole fondamentali che vanno seguite per un investimento all'estero. Allora, innanzitutto va investito esclusivamente in paesi che abbiano una certitudo iuris riconosciuta, quindi una certezza del diritto reale. Secondo punto, detta così ci dobbiamo scordare gli investitori che vengano in Italia, appunto. Questo purtroppo è stato il ragionamento dei fondi americani per molto tempo. Esattamente. Questo è un elemento importante per tutti i privati, che infatti è molto importante essere seguiti da uno studio legale e fiscale che sia in grado di fornire i suggerimenti adeguati. Quindi certezza del diritto è il primo elemento. Secondo elemento è il rapporto di conversione della moneta. È un elemento da seguire, perché bisogna andare in quei paesi in cui ci sia una conversione favorevole per la moneta del proprio paese. Esempio, l'area dollaro in questo momento è estremamente interessante, per cui investire negli Stati Uniti con un dollaro a 1,30 risulta ancora qualcosa che può dare performance migliori proprio grazie al conversion rate. Terzo punto, la regolamentazione edilizia immobiliare, e qui mi allaccio a paesi molto lontani. C'è un po' la moda del Brasile, c'è stata per un certo periodo la moda del Brasile per tutta la crescita paese fenomenale che c'è stata negli ultimi tempi. A un investitore che si affaccia al Brasile consiglio di analizzare fortemente la regolamentazione del paese, perché se dei paesi non hanno una regolamentazione sana si rischia di comprare un immobile e non vedere mai il proprio valore accresciuto, un po' come è successo a Dubai. La regola numero 4, la regola numero 5 per chi vuole investire all'estero rapidamente. Federico Maria Ionta di First. Allora, agevolazioni fiscali e incentivi per l'investimento è assolutamente importante, quindi qui mi riallaccio al fatto di essere seguiti da un fiscalista che abbia competenze all'estero. E il quinto punto è il particolare momento storico del paese prescelto. Gli investitori di solito scappano, il parco boy scappa quando un paese è in crisi, invece è proprio quello il momento in cui si fanno i migliori. È la regola che dovremmo sempre seguire anche per investire in borsa, eccetera. Però sa com'è, anche con quello che abbiamo visto in borsa recentemente, quando ci sembrava anche di aver toccato il punto minimo, molti investitori ci si sono buttati a capofitto e poi hanno scoperto, loro malgrado appunto, che non era neanche quello il punto minimo e hanno raschiato ulteriormente. Detto questo, comunque l'approccio nel mattone segue anche forse filosofia e uno spirito diverso da parte di chi lo sceglie. Allora, Gabriella Bombarda, Berlino, abbiamo sentito la nostra ascoltatrice, sa tutto quello che deve fare in terra tedesca, ma le è sconosciuto, comunque ha un quadro molto confuso rispetto a come essere a posto con il fisco italiano invece per un investimento all'estero. Beh, per quanto riguarda la tassazione degli introiti ricorrenti, quindi in particolare il reddito da locazione che lei avrà stante che si tratta di un immobile affittato, è bene ricordare tre regole principali. Uno, che quel reddito dovrà essere dichiarato anche in Italia, quindi la locazione che è tassata già in Germania dovrà essere inserita anche nella dichiarazione dei redditi italiani, in particolare nel quadro RL. Si avrà una doppia tassazione, ma la cosa positiva è che la doppia tassazione verrà eliminata in Italia perché sarà concesso un credito d'imposta per le imposte pagate in Germania. Quindi prima regola, dichiarare il reddito. Seconda regola, giustamente Deborah l'ha già segnalato lei prima, IVIE da quest'anno bisogna considerarla, è una sorta di imposta patrimoniale del tutto analoga ai caratteri dell'IMU, anche l'aliquota, sulla seconda casa, esatto, sì. Anche l'aliquota è la stessa, quindi 7,6 per 1000, destinato a rimanere tale anche nel prossimo futuro, quindi anche questa andrà compilata in un quadro della dichiarazione dei redditi RM e dovrà essere pagata. Terza regola è RW, quindi dichiarazione di monitoraggio degli investimenti esteri, il controvalore dell'immobile tedesco dovrà essere inserito in questo quadro statistico, se ce lo si dimentica. Ecco, però le so sanzioni che sono praticamente rilevanti. La, come dire, l'indicazione del valore dell'immobile è diversa a seconda della nazione di riferimento. Per quello che riguarda la Germania, che valore va indicato? Il valore di mercato, il valore della compravendita? In Germania esiste una sorta di catastalizzazione degli immobili, quindi verrà attribuito un valore catastale e quello, stante le regole IVIE, sarà quello da indicarsi ai fini IVIE, quindi sul quale pagare 7,6 per 1000. Per chiudere rispetto alla domanda della signora, vorrei chiudere appunto con una speranza per il futuro. Lei diceva: ma che cosa ne sarà io di quando andrò a vendere questo immobile? Come me la tasseranno questa plusvalenza? Ecco, la cosa positiva è che anche lì ci sarà una tassazione concorrente. Quindi si applicherà la regola tedesca, che la signora già conosce, e la regola italiana. Ma cosa dice la regola italiana? Che se io quell'immobile l'ho detenuto per più di 5 anni, andrà esente da imposta. Quindi almeno una nota positiva: se lo tiene più di 5 anni, non pagherà nulla qui. Vorrei tornare in Florida perché c'è un investimento fatto da William e da Oristano, che però da quello che capisco ha avuto, come dire, delle conseguenze leggermente diverse rispetto a quelle che aveva ipotizzato. William, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Niente, io sentendo appunto l'esperto e per quanto appunto concerne la tassazione da dichiarare in Italia nel modulo appunto RM, volevo dire questo. Insomma, io sentendo il vostro esperto, insomma, si dovrebbe dichiarare in Italia, però questo quanto mi è stato detto appunto dal mio commercialista in loco in America, e lui mi ha detto che appunto essendoci un trattato appunto con il governo italiano bilaterale con gli Stati Uniti, non si dovrebbe dichiarare come persona giuridica, in quanto io ho una corporazione. E questo so che vale anche per quanto concerne l'ultimo decreto Monti, per quanto concerne appunto la dichiarazione degli immobili in paesi fuori dal territorio nazionale, un'imposta del 2,5%, ora non so se ricordo bene se sia questa l'aliquota. Ecco, il mio quesito è questo: a me il mio commercialista in loco mi ha detto appunto che non era fattibile il discorso di dichiarare in Italia gli introiti appunto degli affitti dell'alienazione, in quanto persona appunto oggetto di come corporazione. Certo, quindi persona giuridica, non fisica, un'azienda. I nostri due esperti si sono confrontati al volo togliendosi le cuffie. Posso far rispondere a Fulvia Rienti? Sì, ovviamente lui sta parlando di una C-Corp e quindi ovviamente non deve dire quanti immobili ha o quanto percepisce di reddito e quindi... La bombarda, giusto? Sì, sono assolutamente d'accordo, nel senso che se l'investimento è strutturato con un veicolo, alla fine quello che io guardo dall'Italia attraverso la mia finestra è il veicolo, quindi non vedo l'immobile. Quindi, escludendo il caso in cui si tratti di un interposto fittizio, allora io dall'Italia sto semplicemente partecipando a una società, non sto avendo un immobile, il che vuol dire che non avrò da pagare 7,6 per 1000 a titolo di IVIE, ma tornerà invece in vigore la IVAFE, quindi imposta sulle attività finanziarie estere, quindi dovrò dichiarare nel quadro RM il valore di quella società per poi pagarci sopra l'1 per 1000 quest'anno, 1,5 questo, esperto americano gli ha dato i suggerimenti giusti, corretto, il reddito immobiliare rimane dentro la società immobiliare americana e non è percepito direttamente dal socio italiano. Allora volevo tornare qua abbiamo tutti acquisti in Florida, io devo dire che qua sembra un po' che disturbi questo argomento, perché magari qualche famiglia che non arriva alla fine del mese può anche essere un po' perplesso rispetto a queste capacità di investimento che molte famiglie hanno, e noi invece ne siamo molto contenti se qualcuno ancora ha conservato questa propensione al risparmio. Giorgio da Ravenna, buongiorno, lo coinvolgo perché Florida e Panama sono appunto le sue curiosità e le volevo appunto affrontare poi con Federico Maria Iunta. Giorgio, buongiorno. Buongiorno. Rapidissimo, buongiorno, se ce la fa, perché vedo che siamo già in chiusura, tra l'altro. Assolutamente, io ho acquistato un immobile sul Golfo del Messico nel 2008, a Pensacola, che è nel nord della Florida. E io ho conosciuto un agente immobiliare che mi ha consigliato Panama per un futuro investimento, perché hanno detto che ha grosse opportunità di sviluppo e ha già portato tanti suoi clienti, anche italiani, a Panama, volevo un parere da parte degli ospiti. Sì, credo che anche Yonta ne stia portando parecchi in quell'area, vero? Allora, noi abbiamo portato i clienti europei a Panama fin dall'anno 2006 ed era quello probabilmente il momento più propizio, ancora prima dell'annuncio del raddoppio del canale. Investire oggi a Panama è un investimento molto meno redditizio rispetto a qualche anno fa, in quanto nel 2006-2010 la maggior parte di immobili residenziali di alto livello ne erano stati consegnati, dal 2011, fine 2011 sono cominciate le consegne degli immobili più importanti, quindi i redditi da affitto sono sostanzialmente caduti del 27-28% mediamente, per cui il consiglio che le hanno dato era assolutamente sano fino a qualche anno fa e oggi ritengo in trasparenza che sia arrivato un po' in ritardo. 10 secondi di tempo, sì, Yonta, un'altra frontiera straordinaria immobiliare quale potrà essere nei prossimi anni? Ma nei prossimi hour... Lo abbiamo perso, che cosa è successo? Il problema è che stiamo chiudendo la nostra trasmissione, quindi non riusciamo ad andare avanti, ci ritorneremo, se questo è un tema che vi ha divertito così tanto, lo rifaremo presto, magari collegandoci in diretta con il Florida, nonostante il fuso orario, con Fulvia Rienti che sta tornando a casa sua negli Stati Uniti. Io ve lo ricordo, è autrice di Real Estate, guida pratica agli investimenti immobiliari in America, anche una società di formazione, di consulenza, per cui fa un sacco di cose, trovate tutto su Facebook, scriveremo a tutti gli ascoltatori che ci chiedono informazioni. Anche un sito? Sì, www.fulviarienti.it. Più facile di così, quindi impossibile. Grazie anche a Gabriella Bombarda per tutti i suoi suggerimenti. Grazie. Salva Danaio torna domani, parleremo di un grande nostro cavallo di battaglia, la revisione dell'impianto di riscaldamento, visto che fra un po' lo riaccendiamo. Quanto ci costa? A domani. Buona giornata.